La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Il mio primo concerto, nostro primo concerto, sì, me lo ricordo, era una festa di compleanno di un nostro amico, si organizzavano delle feste nella sala polifunzionale della ex Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano e quindi era un compleanno, c'era il palco e noi avevamo cominciato a suonare da poco, non ci chiamavamo ancora Baustelle, ma dentro c'erano un paio di elementi di quelli che poi sarebbero diventati la prima incarnazione dei Baustelle, quindi sì, me lo ricordo, mi ricordo Claudio che saltò dal palco e si staccò il cavo dell'amplificatore, questo gesto clamoroso me lo ricordo benissimo, non me lo potrò mai dimenticare. Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle, è un uomo parecchio schivo e un po' snob, come avrete modo di sentire nel corso di questa puntata, ma anche molto onesto intellettualmente e capace di creare immaginari che diventeranno poi luoghi per intere generazioni. Coi Baustelle fu così, i testi decadenti, suggestivi, talvolta drammaticamente coincidenti con le periferie in cui molti vivevano, li fecero diventare icone e descrittori di una società che zoppicava e perdeva i propri giovani per strada. Quella di Francesco Bianconi è in fondo la storia di un'intera generazione. Sul finire degli anni 90 il gruppo musicale si afferma. In Italia si affaccia anche una nuova era, quella di Internet, come poeticamente raccontava il TG2 Rai. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoio o colate d'acciaio, ma come i bit d'un flusso di informazioni che corre sui circuiti sotto forma di impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bit senza peso. Da Lezioni americane di Italo Calvino, 1984. I bit stanno rapidamente sostituendo gli atomi come strumento della comunicazione tra gli uomini. I mezzi di comunicazione di massa stanno trasformandosi a poco in mezzi di comunicazione personalizzata a due vie. Oggi l'informatica non riguarda solo i computer, è un modo di vivere. Il mondo digitale diventerà piccolo come una capocchia di spina, altro che villaggio globale. Da essere digitali di Nicolas Negroponte. Così senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada e non dubitare mai. Il solco tra una generazione e un'altra si comincia a definire, e non solo sulla tastiera dei PC, ma anche nella musica. I Baustelle, amatissimi dagli allora 20-30enni, restano un mondo sconosciuto alla generazione precedente. Nell'album Sussidiario, i Baustelle fotograferanno l'adolescenza e la giovinezza con una straziante decadenza, toccando le corde dell'angoscia e della leggerezza tipiche di certe giornate di provincia, vissute da 15 anni persi e talvolta recuperati dalla musica. Bianconi diviene in breve il leader di un gruppo culto e la stagione dei Baustelle è ricca di riconoscimenti. Ed è proprio all'apice del successo che il gruppo va in crisi e lentamente si sfalda. Qualche incontro è ancora in programma per i Baustelle, ma in fondo si può dire che ognuno ha preso la sua strada. Bianconi ha messo la sua poesia in prosa, pubblicando libri. Protagonisti sono quei ragazzi, quella generazione che andava ai loro concerti negli anni 90. Ed è quanto accade in La resurrezione della carne, il suo ultimo libro. Il protagonista, tra aperitivi e interviste in TV, si ritrova a innamorarsi e poi scontrarsi con qualcosa di gigantesco rispetto all'ovatta di finti problemi in cui inizialmente giaceva. quella che racconta Bianconi, è una generazione che si lamenta e che resta poi sconvolta quando si ritrova a fronteggiare problemi veri e dolore sordo. La riflessione che faccio io spesso sulla società in cui viviamo è che tendiamo a dare dei giudizi anche spesso molto affrettati e anche molto, molto legati ai nuovi mezzi di comunicazione che frequentiamo, i social network, la rete in generale, ormai sono diventati un po' molto funzionali a questo, siamo tutti diventati bravissimi a dare giudizi su qualsiasi cosa, pareri, commenti, ognuno di noi ormai è bravo a scrivere un aforisma in 30 battute su qualsiasi cosa, alla fine sotto tutti questi giudici rimangono sempre gli uomini e gli uomini hanno comunque tutti un minimo comune denominatore. Nella storia raccontata nella Resurrezione della carne c'è proprio questa, la storia di un protagonista che comincia a giudicare cattivo il suo antagonista e alla fine scopre che l'antagonista è lui stesso in pratica, no? E c'è anche un tema secondo me molto ben sviluppato che è quello della bellezza, la ricerca della bellezza come forma di crescita anche del protagonista. Sì, la bellezza è il germe iniziale da cui parte tutta la storia, forse perché Ivan Zacchi, il protagonista, in gioventù aspirava in qualche modo alla bellezza, alla poesia, sognava di diventare poeta, ha pubblicato una piccola sua raccolta di poesie, poi la vita l'ha portato, come spesso succede, da un'altra parte. Devo dire, nel suo caso l'ha portato comunque su un'isola abbastanza felice in apparenza, perché comunque non diventa un poeta, ma diventa un uomo di successo, solo che il successo arriva grazie a una cosa che lui detesta, ovvero lui diventa l'autore di una serie horror che diventa così famosa in Italia da interessare addirittura gli americani che vogliono farne un remake. Però diciamo che lo scrittore Ivan Zacchi non è molto soddisfatto del successo che arrivi in questa maniera, per cui l'inizio della storia è una vede un protagonista che ha in qualche modo perduto il suo ideale di bellezza e di poesia, tutto nasce da questa amarezza iniziale e frustrazione alla fine, no? Lei questa cosa ce l'ha artisticamente, nel senso che io prima di fare questa intervista ho letto altre interviste che le aveva rilasciato e mi era piaciuto molto un passaggio di un'intervista, adesso non ricordo quale fosse, però lei rivendicava la sua libertà artistica, cioè non posso scrivere musica o scrivere testi pensando se piaceranno o meno, ma deve esserci invece un percorso mio, no? All'interno di un disco, all'interno di un libro, e questa cosa si sente nella sua musica, si sente nei suoi libri. E quanto si fa fatica a rivendicare, diciamo, questa autonomia, se c'è poi fino in fondo? Ma si fa fatica, non costa nessuna fatica dal punto di vista artistico, anzi è la condizione ideale per l'arte, quella di non ricevere condizionamenti, di non arrendersi, la condizione si fa fatica a sopravvivere, nel senso che si può far fatica a sopravvivere, nel senso che spesso ti dicono ok, no, la canzone deve essere così, deve parlare, c'è sempre qualcuno che dice, che pensa di avere la formula giusta, no, dovreste fare una canzone più allegra, dovreste non parlare di morte, dovreste non lo so, andare a Sanremo, e così credo che ci siano anche degli equivalenti per quanto riguarda la prosa, la letteratura, qualsiasi campo. Il problema è che nessuno ha la verità su su come le cose dovrebbero essere perché, per avere successo. Quindi tanto vale, mi rendo conto che non è facile, serve un po' di allenamento, ma tanto vale allegramente fregarsene un po'. Ma sì, perché i mestieri creativi sono cose, sono animali delicati, vivono di equilibri strani, per cui sentire i pareri degli esperti sì, a volte può aiutare, ma anche può non servire a niente. Nel 1984 mi regalarono uno stereo con due dischi, La donna cannone di De Gregori e Un greatest hits dei Beatles. Il mio primo vero amore è stato però Battiato. C'era un amico di mio padre che, quando uscivamo in macchina, metteva sempre la voce del padrone. Era un mix di surreale e serietà, libertismà e modernità, orecchiabile ma con testi difficili. Per dire, all'epoca non avevo la minima idea di cosa fosse il free jazz e il punk inglese. Battiato mi ammaliava, perché era un personaggio e per questo motivo le sue canzoni funzionavano. E stessa cosa si può dire per un altro grande, David Byrne dei Talking Heads. Le sue canne di bambù. Racconta così Francesco Bianconi, una delle voci più belle tra i musicisti italiani, frontman del gruppo toscano Baustelle e ospite di oggi. Bianconi non scrive più canzoni ma libri e l'atmosfera che si ricava è davvero diversa dai testi musicali, ma ugualmente bella. La prima volta che Bianconi ha scritto un libro, il successo è arrivato quasi di riflesso rispetto alla sua carriera musicale, eppure il percorso è diverso dalla musica. Ma quando scrivo sono una persona perfettamente sola e questo fa anche male, c'è una, soprattutto nello scrivere prosa, io l'ho sempre detto, si entra in un grande mare di solitudine che però è funzionale poi al lavoro, secondo me serve attraversare questo mare di solitudine. Persone più grandi di me o che considero dei modelli di riferimento ce ne sono, persone anche anagraficamente, non lo so, per molto banalmente mio padre, ecco, è una persona che stimo, con cui ho un buon rapporto e mi è molto utile, è molto più specializzato di me in molti campi di cui io magari tendo a non occuparmi. Io sono quello in famiglia, sono quello che fa le canzoni e scrive, per cui non sono molto bravo quando si tratta di occuparsi delle bollette, quindi o di altre cose un po' più legate alla realtà. Per cui cerco l'aiuto di qualche consigliere esterno con più esperienza di me, sì, mi aiuta a vivere anche quello. E com'è stata la sua famiglia, diciamo, d'origine? Poi adesso sentivo anche un bambino, per cui ce n'è anche un'altra che ha formato, sì. Lei, quindi com'è stata la sua, diciamo, storia? Sì, sono nato a Montepulciano e ho vissuto in una frazione di Montepulciano che si chiama Badia di Montepulciano ed è stata un'infanzia felice, abitavo in questo piccolo paese, anche molto, diciamo, un paese, ma era praticamente campagna, Badia di Montepulciano, quindi sono stato fortunato a stare a giocare all'aria aperta, insomma, conoscere, essere un po' contadino nello spirito. E poi, non lo so, c'è l'adolescenza in cui si è per forza di cose un po' più inquieti, non dipende forse neanche tanto dal posto in cui vivi, non dipende dalla geografia e non, nel mio caso non c'entra la famiglia, ho avuto un'adolescenza un po' inquieta, vagamente turbolenta, ma non do colpe ai miei genitori, quindi ero un ragazzo taciturno, bravo a scuola, timido e che sognava di fare tante cose, tra cui ad esempio mettere su una band di rock and roll, che cosa che poi ho fatto, che comunque io poi la mia campagna d'origine l'ho lasciata a un certo punto e sono venuto a vivere in città e E in qualche modo i due mondi nelle canzoni dei Baustelle sono rientrati, cioè sia il tema della provincia, sia quello del vivere in città da provinciale, ma anche da cittadino, quale sono diventato, oppure c'è la città vista da occhi di personaggi che mi sono inventato. E il tema che mi è piaciuto molto, che ho ritrovato anche nel suo libro, è quello della bontà, perché è quello che diceva anche prima, no? La poesia e comunque la bellezza nascono dalla bontà. Secondo lei è un po' il momento, questa è un po' una forzatura, in cui i buoni potrebbero farcela sui cinici, tanto siamo sommersi da cinismo? Sì, potrebbe darsi, nel senso che in un periodo di cinismo massificato, sì, forse non ci rimane che attendere il ritorno dei buoni, ma il cinico non è cattivo di per sé, o perlomeno nella sua condizione storica originaria, penso alla corrente filosofica, sì, greca, non erano cattivi, erano comunque dei buoni che esprimevano un particolare modo di pensare riguardo al vivere. Adesso una parvenza un po' volgarizzata di quella idea filosofica è stata spalmata su tutti quanti, e quindi cinici lo siamo un po' tutti, siamo cinici in una forma sì massificata, per cui alla fine io da snob quale sono, no, voglio immediatamente smettere di professare il cinismo e passare, non le dico per il buonismo perché mi fa un po' paura, però cercare un rapporto diciamo più diretto con un'idea di bene, insomma più legato alla realtà, all'idea del cercare in qualche modo la felicità nelle cose terrene, questo sì, mi piacerebbe, potrebbe essere il momento per cominciare a farlo. A proposito di bontà, vi lasciamo con un estratto della Strada di Cormac McCarthy, un libro molto amato dall'ospite di oggi e che vi consigliamo di mettere tra quelli da leggere se non l'avete mai fatto. Siamo ai titoli di coda dunque, vi ricordo che la prima volta è su Facebook all'indirizzo radio24-laprimavolta, inoltre potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli, a domenica prossima. Si svegliò nell'oscurità, tossendo leggermente. Rimase in ascolto. Il bambino era seduto accanto al fuoco, avvolto in una coperta, e lo guardava. Uno sgocciolio d'acqua, una luce che si affievoliva. Vecchi sogni usurpavano il mondo reale. Lo sgocciolio era nella caverna. La luce, una candela che il bambino teneva in un cono misura anelli di rame battuto. La cera colava sulla pietra. In quel corridoio freddo avevano raggiunto il punto di non ritorno e soltanto la luce che si portavano dentro misurava la distanza dall'inizio. Te lo ricordi quel bambino, papà? Sì, me lo ricordo. Secondo te sta bene quel bambino? Ma certo, secondo me sta bene. Secondo te si era perso? No, non credo che si fosse perso. Ho paura che si fosse perso. Secondo me sta bene. Ma chi lo troverà se si è perso? Chi lo troverà quel bambino? Lo troverà la bontà. È sempre stato così e lo sarà ancora.